qualcosa attaccato, non so se hai qualcosa attaccato, ma ti sta mangiando la rabbia. No, niente, mi sto regolando dal microfono, il superfide. Ma Luca? Ma dove senti? Ti sento, ma sei comunque tutto strano, come se ti stesse mangiando la rabbia. Guarda, così tutto abbassato, tutto a uno è già. E adesso fammi. Super Fiderick con l'FM500S. Aspetta un attimo che alzo il volume. Sì. Buonasera anche a lei, avanti. Fino avanti. Santiago 7,5 la radio 5. Chi sei? Cristian. Ciao Cristian, tu a me lo sai che non mi puoi fregare. Ma no, non ce l'hai come il mio. Che microfono hai? No. Io c'ho il Turner Super Side Dick. L'abbiamo solo noi qua. Che basso che sei uscito con fronte a Cristian. E mai di abbassare tu? Prova a stare adesso. Guarda a vedere, così il microfono a metà e metti a uno. Ciao, va bene adesso, dai. KK, microfono uguale al tuo, KK. Il Super Side Dick. Ehi, hola. Ma allora lo sta spingendo lui. Se mi ha detto di abbassare che lo occupo. Guarda così, non lo metti a metà. Prova a farlo del tutto e poi abbassa. Forse ero io che avevo il volume basso e ti sentivo così. Prova a farlo del tutto. Allora, vado di Mikey Green, tutto al massimo così. Facciamo così che va bene. Microfono a metà. Sì, già va bene, dai. Come lo senti tu, Cristian? Sì, a KK. Lo stesso microfono, solo che qua è stato sostituito il circuito interno già, perché questo era rotto. Mi sa che te l'avevo già detto anche. No, non me l'avevi detto. Vabbè. Allora non c'ha più niente del Super Sidelic. Questo qui è originale, quello che c'ho io. È lucido, lucido, vabbè, io l'ho rifatto e anche. L'ho fatto restare. Ah, questo me l'hanno spedito rotto, venduto come funzionante, e allora l'ho mandato a Francesco, una rossa, e mi ha ricostruito, mi ha fatto un circuito lui, e niente, sembra che vada bene, anche con 140 andava molto bene. E vabbè, uno si arrangia, almeno lo scheletro ce l'ha delle super sedie. E allora Cristian, in macchina l'hai piantata. Eppure io ho fatto così. Allora l'apparecchio c'ha le staffe fisse, no? Lo metto e poi gli metto la base magnetica, quando lo voglio lo uso. Però sta fischiando. Via. Adesso no. Le stazionarie controllatele. Non so entra. Le stazionarie devi sempre controllare, perché non le ho controllate anche se base magnetica. No, il microfono amplificato che può farlo anche, mettendolo al massimo magari innesca. E vabbè, comunque, che apparecchio stai usando? Ma sta fischiando di nuovo. Prova a abbassare un pochettino il mic gain, non ne hai. E abbassa il microfono perché sta fischiando. Buonasera. Buonasera a tutti. Come state? Bene? Io sì, grazie a Dio, e tu? Io grazie a Dio, addio, meglio di così non si può. Ciao Cristian, buonasera. Bene, benissimo, tutto bene, tutto a capo di Rogero, dai. No, io sono andato a salutarvi già sta bene, aspetta la radio. KK, va bene. Ciao Cris, ti ascolto più o meno come Gianni, dai, Santiago 7, Radio 5, buona. Io sto andando col Grassi e il microfono alterne più 3. Non è super sidere che mi alterne più 3 normale. Ma arrivi bene qua a casa? Vabbè, io non sono più a Sassari, sono qualche chilometro fuori Sassari, però arrivi bene. Santiago 7, Radio 5. Ho sentito anche a Luca, Luca. Ehi, ciao. Ciao, Santiago 9, via, Radio 5, o forse 9 più 10, sì, K. Qua, 3 watt e mezzo, sto usando l'FM500S. Via, 9 più 10, Radio 5. Ciao, sì, ciao, alle prossimine, e anch'io, adesso non è vado. Ciao, a innaffiare, che c'è un bel freschetto. Ciao ragazzi, vi saluto, alle prossimine, stai andando bene, Luca. Vabbè, questo presso ciò KK, il microfono a metà e il macchina al massimo regolato da Gianni KK. Il microfono puoi anche tirare su, io sono lontano, prova a vedere. Allora, adesso è a 7, 8, 9, 10. Lì, cazzo, spinge, già spinge. A 7 mettilo, lasciala a 7, va benissimo. 7, così? Va bene? Per me sì, per Gianni non lo so, magari sei troppo vicino. Gianni, sei tu, non sei uscito. Ma vabbè, qualche vento è già. Comunque va bene. Avanti Cristian. Ciao. Questa è la temperatura. Ciao, stai uscendo basso, schiaccia bene il microfono. Non sei uscito. Però c'è qualche contatto di Gianni, no? Anche te ce l'ha queste cose. Io infatti non li uso PTT, uso sempre il LOC. Stiamo usando lo stesso microfono, mi sembra, con Gianni, il Super Sidic. Sì, ma Gianni quando esce è leggermente più forte del tuo. Però non sta uscendo, bluh. Niente, oggi, niente. Sono portante, forse c'è la batteria scarica. Questo non è valido col gas, il termine, va bene, ce l'ho a 3. Va benissimo. Cosa? Va benissimo. È andato sempre bene, c'è quello nero, il termine più 3B, ma va alla grande. Lasciato sempre questo sul Galaxy. Ciao, come mai non stai uscendo? Questo Gianni, oh, sempre problemi, cioè, sempre problemi di uscita di radio, tra l'altro. Ma stavo uscendo benissimo, era fortissimo qua, 920 radio 5. Beh. Adesso non sto andando. Adesso è grande. Ma questo non è il Tamer Pro, questo è il Saletta. Doppio bip, ha chiamato radio, ha chiamato microfono. No, questo è il Saletta, più forte il Saletta, cacciamo la radio quel Saletta micidiale, ce l'ho anche io. Ce l'ho anche io, l'ho staccato dal Galaxy perché c'è una radio micidiale. Ma è massa troppo, è massa più. Ma so quello, sicuramente la batteria scarica quello lì. È troppo tempo fermo, magari si è scaricata la batteria. Ma già, Saletta è arrivato 7-0, Damere, non ti offendere, c'è una modulazione è favolosa. Ma sono tutti e due pure, là. Io li ho sentiti tutti e due, vogliamo registrarti, fanno quelli tutti e due. Sì, ma Saletta c'ha un po' più di acuti, mi piace di più, più prepotente come radio mi. È vero, su quello parlano bene. Sono belle tutte e due, niente da dire, però Saletta mi piace più perché c'è una spinta di acuti micidiale, ti fa sta radio proprio bella, forte. C'è un attimo, prendo il tester, la misura della partita. Ehi, vabbè, dai, io vi lascio andare a innaffiare, se no poi c'è troppo fresco. Beh, sentiamo ragazzi, piacere avervi ascoltato, ciao Luca e ciao Gianni e anche a Cristian se l'ascolta, ciao buon innaffiamento, fatemi un canto automatico. Ciao Cri, alle prossime. Ciao Cri, fatemi un canto automatico. No, è se non avevo già fatto, mi gratto le balle, no, lui, bello innaffiare, bello la pompa, c'ho lo spruzzino, allenante è bello, facciamo un po' di tempo. Ma la sindra buttare. Lu, no, gli buccio non da io, mai ci vecchia, adesso le frutte e verdure, io c'ho il prato, mi sono fatto il prato, inglese, infatti per quello devo annaffiare 3 volte al giorno, la mattina presto, a quest'ora e poi la sera sul tardi, capito? Se no non ce la fa andare avanti. Sì. Ehi, cosa fai? A me è bello, cane gioca, sto già una parte la sto rasando. Una volta alla settimana, l'altra ancora è troppo bassa, per quello infatti sto annaffiando quella parte di sopra. Va bene, dai, KK, vi saluto e ci sentiamo, ok? Ciao! Ciao. Ehi, così Da io ho l'antenna bassa, praticamente neanche a un metro, perché avevo abbassato il palo perché c'avevo il dipolo attaccato sotto, siccome lo dovevo dare, e allora ho dovuto abbassare tutto e aggiudicava la subussi, intanto non viene su. E così che sarà neanche un metro di palo c'è. E qua ce n'è uno solo, sto usando la Smart Tech, non sto usando la mantova, qua sul gas c'è quella lì. C'è un palo solo praticamente attaccato al muro e poi c'è l'altro pezzo, sarà anche il mio, sarà 2 metri di roba, non di più, me l'ho tirata su, la sto ancora tenendo sotto controllo, sia che c'è qualche cosa da fare, ma non penso un brucchio. KK, il segnale basso è no? Qua sono 10, dovreste provare non tanto come cosa, come trasmissione, come ricezione a sollevarla, ma quella va bene anche a un metro dalla terra, capito? Però devi vedere appunto sollevandola cosa ti cambia in ricezione. Vabbè, adesso devo andare a Carbonassi e prendere altre 2 pali perché me ne serve una da 45 e una da 50. E poi magari la metto all'altezza della mantova, vediamo le differenze, ma già così la ricezione è ottima, non c'è problema, capito? Ottima, i segnali sono belli alti, ascolto tutti. Va bene, dai, la sperimentiamo dunque, vediamo. KK, ci sentiamo, dai, vai a raffiare se ci siete entro l'occo, ciao. Hey, ciao, Gianni, Gianni gli si è consumata anche l'altra batteria. Sicuramente, non so, va bene, beh. A frappè. Ciao Claudio, ci sentiamo, dai. Ciao Gian, se ci siete entro l'occo, che vado a raffiare un po' il prato, sennò poi fa troppo tardi, e poi lo devo annaffiare prima di coricarmi. Ciao. Questo è... Ma è bassa già, è bassa la radio, non sta andando come deve andare. È 8,75 la batteria, forse è scarica. Adesso sei uscito bene, allora sei tu che rompigi bene già. Guarda, adesso sto pigiando bene, vedi un po'. No, sei calato di nuovo, poco fa quando hai detto 8,5 la batteria eri fortissimo, poi sei calato. Ma che faccio contatto già? Devo essere contato già le tessere. Mettilo a posto perché esci benissimo, alla grande, se sta funzionando bene. Dai, a dopo, riprendilo, ci sentiamo dopo se ci siete, ciao. Sì, ciao, ciao. Già, non si capisce se è questione di batteria o che cosa. Ho la batteria, l'ho misurata, è 8,75, quasi 9. Ma ci sono dei momenti che ci porti e poi a un tratto ti abbassi. Sarà qualche falso contatto. Ma questo è che microfono? Questa è la saletta, Master Plus. Ah, allora non era questione di cosa, scusa. Se anche con l'altro stavi, con questo stai facendo lo stesso difetto. Adesso con lo stesso difetto sta facendo. No, adesso è forte. E l'ho cambiato adesso il microfono. L'ho tolto l'altro e ho messo quello. Chi è ragazzo? Lo pescare non ci sta andando. Io sono andato, va. Sempre lì a lì. No, sono andato al settimo pittine. Al settimo. Addirittura. Vabbè, sesto e settimo comunque sono sempre stati degli ultimi posti. Ho preso un'orata e una cosa, una moto. Basta. E al Lido comunque già è sempre pescoso. Ma è sempre pieno anche. A tutte le ore che fai c'è gente, se ne vanno lì tutto il giorno, si mettono la canna già pronta per pescare, allora alle 8 cominciano a pescare. Pensa che io ho fatto i 2 giorni, da 14 al 16 lì a Porto Torres, no? E lì allo Scoglio Lungo c'era gente che si metteva sui secoli massi che ci sono dove c'è il ristorante, con 3-4 canne da pesca lanciando a mare di fuori. Già lo so, ma se lì gira il mare poco, ti piglia in piedi, ti tira a neva. Addirittura pensa che ho visto uno di notte, no, perché poi il 15 ho fatto un giro lì, c'erano tutti i bar aperti, no? E c'era un tipo, uno solo, proprio lì in punta, allucinante, con la pila, lo vedi, l'accendi. Sì, sono lì, se ti capita che gira al mare poco, grazie, non ve la vai a curare, che è troppo lunga la strada. Io non ci sono mai stato, lì sopra, però visti così, Massi, se si alza il mare non è semplice tornare a riva. Quello già ce l'ha fatta a Moncattaneo a noi, quando andavamo a pescare a Moncattaneo, si è girato il mare e dovevamo trovare l'onda arrivava dalla parte di Lisbona e arrivava dalla parte del Moro. Dovevamo trovare il momento giusto che l'onda non c'era per correre, per passare. Cazzo, se abbiamo azzeccato da una parte, dall'altra abbiamo appiccicato tutti e due, e avanti. Ascolta, è su quei frangifrutti che hanno fatto da poco, non ci siamo ancora andati? Dove? Sempre lì a Porto Torre, se non hanno fatto quel pezzo con i frangifrutti, prima del ristorante. Ah sì, ho capito, no, non ci sono mai andato, non ci sono mai andato. No, però io sono andato a volte in spiaggia, perché mi sta piacendo in spiaggia, anche se ti sputi di sabbia, mi piace pescare dalla spiaggia, mi dà più soddisfazione. Beh, mi manca il terzo, già c'è della bella roba, comunque. Al terzo qui? Però bisogna andare dove c'è la parte dell'hotel, capito, l'hotel del golf. Da lì lanci, c'è della bella roba, credimi, perché facendo anche pesca subacquea ho visto che c'è della bella roba, figurati di notte. Non sono mai andato al terzo qui, ti dico la verità. Devi stare oltre dove finiscono gli scuri, dove praticamente mettono la corda in acqua lì con la boa, devi lanciare lì. E ci sarà il canale, come c'è. Se ti ripeti, se tu riesci a lanciare dove c'è il canale, si adatta. Ci devono essere onde lunghe e un bel lancio, vai. Devi stare attento perché se becchi gli scogli devo incagliare il bubito. Ma comunque in ogni caso lì si pesca sempre, si pesca bene. E poi ti puoi fare anche i granchini, perché ci sono i granchini. Ma ti porti una salmina. Che stiamo già? Ah va. Sì che ti sei. Già, stavo provando il baracchino che ero qualche mese che non lo usavo e stavo vedendo se funzionava, perché me l'ha buttato in garage. Vabbè, ok, ciao agli amici, sto ascoltando, ciao già. Ciao Bruno, ciao. Ti sei arreso? No, non mi vedo che sono dentro un porticato sotto terra. Ah, no, vedo, ti sei arreso col baracchino, non ti ho più sentito. Ah, ma sai cosa? Già avevo comprato quell'antenna, la bombola che abbiamo messo nel balcone. Ma non funzionava, quello da 3 mesi, non funzionava, andava male. Per cui da casa non lo sto più usando. Adesso stavo facendo un trasloco del garage, l'ho cambiato garage, ho rimesso la fare in macchina, adesso me la tolgo giù da qualche parte, mi sono un angolino. Sotto di Alice, qualcuno l'ho salutato, perché sono un po' casinato. Ma se tu ti prendevi un altro 2001 come quella che ho io in macchina, la mettevi sul piatto di lamiera e c'è una cannonata di Sant'Enna. Sai cos'è già, sono incasinato perché io sul tetto ancora non posso mettere niente, perché devono cominciare del lavoro, devono fare il tetto. E prima mi hanno detto brucio da 6 mesi, 1 anno, adesso qualcuno sta facendo 2 anni, io mi pare che è stanco. E altro la cena grande e poi quando saranno la butta terra, si tira del brutto. Ma infatti, ma se ti accettare come da ci rilassi, lui non fa niente. Comunque, adesso vediamo un po'. Vabbè, ascolta, rimango un pochettino d'ascolto e poi quando sono nella casa me ne vado un po', là. Andà bene, va bene, siamo qua. Luca! Sì, c'era uno piccolino, KK. Hola, Brecco, buonasera. Poi a tua. Ciao, buonasera a tutti, dai. Uia, sono appena entrato, aggiungo che ho battuto al forno, a va, troppo guvaro l'ha baito. Bravo, tu l'hai fatto. Caroppa, l'ha giovata con lo prosciutto, ti l'ha giovata da mare, sei mangiato la deglia. Vai, non sei cucinato, è finita. Vai, è finita tu, vai. Vai, è finita, se sei cucinato, vai, dimmelo già. Io qua ti devo contraddire, perché Antonio cucinava la, quando era a casa della mamma, facevano tutto loro, vero Antonio? Carta, è garbazia, io so fare tutto, cioè quasi tutto so fare, so fare i piatti, so cucinare, so fare un sacco di cose. Purtroppo si pure in maniera così in questo periodo, fidati. Si attraverso. Oh, vi lascio un attimo che sto facendo roba, là. Metto a posto quel microfono che girate già le scarpe. Cappa, dai. Io vado giù a controllare, vai. Ci sentiamo dopo. Ciao Cristian, buonasera. Cappa, già ti sento già, Chris. Dai, devo scendere giù a controllare la situazione. Se a me mi si brucia qualcosa. Oggi non ci scende a Platamo, Chris. Ho detto, non ci scendi oggi a Platamo. Ciao, ragazzi. Chissà che male che c'è oggi, non è vero. E già lo so dove scendi. Cava cava, ho capito dove vai. Un attimino che metto a posto questa roba. Olè, olè, olè, olè. Hola chicos, Gianni. Sì, ero qui giù. E fra poco vi lascio, vai. Che vado a mangiare e poi ce l'ho panella. Cappa cappa. Mi era passata della roba dall'altro giorno. Non c'è pure il prosciutto, ma non si rampa nuda, l'ho fatta normale oggi. Già me la mangio in casa. L'altro giorno ho fatto la carne macinata, ho fatto il ragù, ho messo il prosciutto, ho messo buona redda era. Ma io il prosciutto non lo metto mai, se è lo stesso buono, tu, piccola abilità, ci metto la carne macinata col sugo e via. O li metto, faccio il sugo con la salsiccia, lo sai che è buono. Già lo so. Oh, però anche il maro è pure il sugo normale, se non c'hai altro. Cappa. E poi gli metto, le mai comprate tu le cose, cazzo i cucciani, a me mi piacciono, io vorrei avere un mongo, fette di dolce sardo. No, quelle no, non le ho mai messo, però gli metto il formaggio, eccetera, eccetera. Cappa, e io compro quello, quel formaggio della cosa. Allora lo uso anche a casa, sì. Però il gran capitano, ma hai sentito? Cioè già l'avrai visto un po' di voce. Mi sembra di sì. Io prendo quello sardo, lo stesso il gran appadano prendo. Che è fatto proprio, diciamo che lo fanno in Sardegna, però è il gran appadano, dai. Fanno le infatti in Sardegna, le pacchette in Sardegna, ma è. Che cosa, il gran padano e poi c'è anche il parmigiano reggiano. Io compro il gran campidano, quello che fanno fa l'armorea, che è più saporito, ed è buono davvero, pensate che ci buona da cui anche tu, uno vale l'altro. Io l'ho mangiata qua, tu dove che fa? Domani faccio il ravioli, l'ho comprato, ma di ricotta solo mi piace, la ricotta e spinaci, non mi piace di là. No, già li mangio anche altri io. Io prendo quello gran campidano, cioè, ma l'ho già detto. No, anche a me già mangio anche gli altri, la verità. Non c'è problema. No, a me mi piace tutto, cioè la verità, già mangio tutto. Però la pasta al forno l'ho fatta domenica, era Ferragosto, ho detto oggi scendiamo la pasta al forno, la giubbuccia, un coso per tenere il caldo, ho sceso al mare, tavolino e tutto avevo mangiato. Fatto bene. E dove sei andata al mare? Alla rotonda. E giù per il centro, mi sono ruotati per me di ieri. Ok dai, mi sta chiamando Sara. Ci sentiamo? Ciao, buon appetito, dai, ci sentiamo, stavi bene. Bruno, se sei all'ascolto ti saluto anche tutti lei. Ci sentiamo. Ciao Luca, Claudio, se sei all'ascolto, tutti gli altri ascoltori, che poi non entrano. Ok, già, saluto io. Saluto anche gli altri amici che stanno via. Io sto sistemando questo affare qua perché ho cambiato baracchino, ormai andiamo già 3 o 4, non ho capito qual è, va bene quello che stiamo facendo. Mi ho piazzato l'antenna stasera e così via, ho fatto gli attacchi qua, non era, se non la posso andare a casa la sera, ho detto ma che l'ho fatto stasera, me ne salgo a piedi grigio, sono così e almeno mi sento, mi capisce, è una cacca stessa. Allora posso dire tanto che la sentiamo, c'è anche gli amici. Questo va bene, Bruno, lascia questo qua perché va bene, il radio sembra ben ficcato. Va bene, disegnate il radio, tutto. Il problema è che sta entrando poca gente in questo periodo perché sono tutti quanti a passeggio, al mare, questo e quell'altro. Sta entrando poca gente, ma prova, io sono entrato 4-5 sere e non c'era nessuno. E poi oggi ho beccato gente, dopo un tanto. Peccato perché, vabbè anche sono sbagliato, peccato perché quando ce n'era tanta ci lamentavamo, dovevamo fare ore in ascolto per aspettare il nostro turno a parlare, adesso avanti per sono disistito. Comunque vabbè io adesso andrò alla macchina qualche volta, poi deciderò e farò qualcosa che altro discorso più. Vabbè, ok, ci sentiamo, raga. Ma è proprio il periodo, adesso vanno a farsi una passeggiata, hai capito? Vanno a mangiarsi gelato, quando c'è caldo specialmente chi c'entra? Diventa una fornace pure a casa, poi va bene, ci sentiamo, buona serata, ciao Cristian, dove sei andato? Ma ti tocca oggi? Tuo padre come sta? Ma è una bella, meglio così, là. Andà bene, salutami Antonio che non l'ho più sentito quando lo vedi. Cosa? Comunque questo baracchino va bene, che cosa hai detto? Che io non la 60? Va bene, si sente bene, dai, c'è una bella radio. Ho capito, modificato, dai. Come, così? Prova, tranquillo, la modulazione è più limpida e meno impastata. Così va meglio, in un'altra maniera un po' te l'hai fatta, mi ti mangia le parole, però già è forte per la potenza. No, no, era meglio qui. Prova. No, ripete troppo. Così va bene. Sì, sì, va bene così. Che microfono è quello lì? Ah, ho capito. Il DM1000. Il DM1000, è il prossimo DM1000 del resto. Quello che c'ho anche io. Ce l'ho ancora io. Io te la gola. Non me ne ricordo pure me, non me la tempo. Vabbè dai, ci sentiamo Cristian, che io adesso vado a vedere se può mangiare, però lì, se no, a te. Non se non può mangiare, mangio io. Ciao. Ma la stai facendo Cristian? Ah, ma la stai tagliando anche dalle altre parti o solo in campagna? Ho capito, sto diventando il tuo lavoro, là. Che bagliare, ma non ti dire che c'è. Ho capito. Va bene, là, qui. C'è con qualche ditta oppure solo. Va bene, là, ciao.